qualche nuvole il vento le scioglierà, le bambine sirenua, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin dentro gli occhi hanno il sole, lampi di uragani, e la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità. Donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà. Donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà. Per noi, per il mondo, di Buñuel, freddi angeli il sole non le scalderà, le modelle di Chanel, prigioniere in un atelier, le ragazze nei metro hanno sguardi lontani e mani fragili, quale amore le fermerà, cuori in attesa.